24 mattino con Irene Zerbini. Giovedì 6 agosto, buona giornata, benvenuti. Questa mattina nel nostro incontro con i corrispondenti della stampa estera presenti in Italia abbiamo deciso di far tappa a Mosca e sfogliare la Komsomolskaya Pravda. Privet Vladimir Zibrov, l'ho detto bene? Privet, sì, benissimo. è un esame di lingua, ogni mattina una lingua diversa e è regolarmente bocciata. Con un po' di pratica ci si riesce anche con il russo, secondo me. continuerò poi per tutta la mattinata. Comunque, Vladimir Zibrov, di cui avete già sentito la voce, è il corrispondente da Roma della Komsomolskaya Pravda e quindi presenta su questo quotidiano estremamente prestigioso, diffuso, importante l'immagine dell'Italia, perché tutto sta in quello che tu scrivi, in quello che tu osservi. Per esempio, qual è l'ultimo articolo che hai redatto? L'ultima cosa che abbiamo fatto è stata un'indagine, diversi corrispondenti che scrivono dall'estero hanno partecipato, abbiamo fatto un confronto dei prezzi per capire come affrontiamo la crisi nei confronti dei maggiori stati europei ed possiamo dire che è venuta fuori un'immagine abbastanza deludente per i russi. Cioè, cosa vi aspettavate e cosa avete trovato sul campo poi? Ma abbiamo scelto diversi settori d'economia, abbiamo fatto il confronto dei prezzi per alimentari, per automobili, mattone, cioè le case, eccetera, eccetera. Ecco. E qual è l'immagine deludente che ne è uscita per quel che riguarda l'Italia? Abbiamo scoperto che la crisi si è sentita notevolmente in Russia. Che c'è tanto da fare, insomma, che l'economia ha sofferto tanto. Ecco, quindi la relazione con l'Italia, qual è stato il confronto, la comparazione con l'Italia? Insomma, che in Italia ci si riesce un po' meglio ad affrontare questo problema di crisi. Ci sono tanti aspetti su cui si dovrebbe riflettere, per esempio l'economia russa che continua a essere troppo legata a idrocarburi, eccetera, eccetera, e quella d'Italia invece che continua a produrre le cose che si vendono in tutto il mondo. Ecco. Cioè, l'economia russa è stata maggiormente penalizzata anche per l'estremo peso che ha il capitolo idrocarburi e di conseguenza è un confronto con l'economia italiana ha invece promosso la seconda perché più è eclettica, più diversificata, eppure anche l'Italia lamenta dei contraccolpi considerevoli dell'ultimo passaggio. È importante fare questo esame per poter migliorare le cose, insomma. Ah, è interessante anche vedere questa diversa prospettiva con cui si guarda la realtà economica italiana da dentro e con occhi invece diversi e che soprattutto possono fare il confronto con un'altra realtà. Vladimir Zibrov, per esempio, tu da quanti anni sei in Italia? Parli l'italiano molto bene. Da un anno e qualche mese, ma ci sono stato anche prima lavorando per media russi, per un'altra testata, per un altro quotidiano. E quali sono gli articoli, i settori sui quali ti concentri maggiormente per i tuoi lettori russi? Ma le problematiche sono molto diverse dalla politica all'economia, all'attualità, eccetera, eccetera, sport, gossip, che siccome noi siamo un quotidiano, diciamo che diventa sempre più popolare, che diventa sempre più un tabloid, insomma è così. C'è una pagina consistente in pettegolezzi e pensi che l'Italia offra un terreno piuttosto fertile per far lavorare voi corrispondenti Sì. su queste tematiche. Ma cosa ti chiedono i tuoi caporedattori da Mosca, le persone che gestiscono, coordinano così l'unità centrale del giornale? Molto spesso mi chiedono come un criterio un po' generale che riguarda tutti, è che nelle notizie ci sia un po' di Russia, cioè un aspetto che lega la notizia alla Russia. Cerchiamo di arrivare con le notizie fino come dire, ai gruppi molto diversi dei lettori, della popolazione. Bisogna tenere presente che la Russia è un paese molto vario, cioè i diversi sono enormi, quindi cercando di essere ben accettati sia da giovani di Mosca, per esempio, sia dai pensionati che vivono nelle periferie, bisogna. Tu mi hai parlato dell'indagine sulla crisi economica, la Sì. comparazione tra i prezzi, e quali altri articoli hai scritto recentemente? Ultimamente, recentemente, sì, abbiamo scritto sul scandalo, sull'inchiesta di Bari, su Berlusconi, poi sul Vaticano, mi pare, sull'infortunio di Papa Benedetto XVI, ad Aosta, poi su quell'incidente ultimo, sull'incidente stradale avvenuto a Forte dei Marmi con un russo che ha dato 400.000 euro a un uomo investito da 4.000, no? 4.000, ho detto, sì, Sì. E investito in motorino, ecco. perché aveva fretta, l'ho investito, adesso devo andare, dategli questo per risarcirlo. Sì, ovviamente questo può aver avuto grande risalto sulla stampa russa. E di che altro si occupa la stampa russa in questi giorni? Quali sono i titoli di prima pagina a Mosca? Allora, la prima pagina di Komsomolskaya Pravda, come un po' di tutti i maggiori testate, è quasi sempre le problematiche interne che hanno a che fare con la crisi, con riforme assai difficili, quelle della scuola superiore, quella dei pensioni. Poi c'è un altro problema, il trasporto pubblico di Mosca, che insomma è da un po' di tempo è molto acuto. E quindi sono sempre, quasi sempre, le problematiche della Russia che occupano la prima pagina. L'Italia c'è stata l'ultima volta, se non sbaglio, quando c'erano quei drammatici notizie dall'Aquila sul Sul terremoto. terremoto, Sì, quello ha esatto. fatto guadagnare anche all'Italia purtroppo i titoli di prima pagina. Altrimenti, tematiche interne e quali sono le altre nazioni che si seguono con interesse? Le vicende internazionali, a prescindere dall'Italia, ovviamente, che non ha la pretesa di finire in prima pagina, Sì, a cosa guardano con interesse? Tu hai detto nel tuo giornale cercate di coprire. Dai giovani di Mosca ai pensionati che vivono in periferia, cercate di coinvolgere un po' una fascia molto vasta di lettori. esatto, sì. Ma parlando dell'estero, c'è sempre tante notizie che riguardano il nostro estero vicino, tra virgolette, le ex repubbliche sovietiche. Le relazioni, come sappiamo, non sono sempre molto, molto buoni. Distese. Ecco, quindi poi un po' per tradizione ci occupiamo degli Stati Uniti. Dopo l'arrivo di Obama a Casa Bianca, gli Stati Uniti ci offrono tanti temi che affrontiamo, che cerchiamo di commentare. Qual è il più grande difetto dell'Italia per te che ci vivi? Il più grande difetto? Sì. Non sarebbe meglio cominciare con i pregi? Va bene, diciamo c'è del menefreghismo negli italiani, secondo me, il menefreghismo con cui si spolvera il tappetino, per esempio, sulla testa di chi abita sotto, insomma queste piccole cose. Poi forse la spensieratezza con cui, secondo noi, affrontate i problemi abbastanza seri come immigrazione clandestina, eccetera, una leggerezza certa così. Poi E diciamo allora che. andiamo ai pregi adesso. Ah, va bene, basta con i difetti. I pregi, ma sicuramente un senso di bello e una creatività incredibile che vi permette di offrire prodotti di altissima qualità, parliamo del design alimentari, vestiti, automobili, barche, eccetera, e che secondo me, non solo secondo me, è più utile c'è una cosa che è sempre richiesta. Un paese può andare avanti anche nei tempi di crisi, secondo me. Grazie a questo spirito, tu dici, a questo spirito creativo che hai identificato. Vladimir Zibrov, pacà. Pacà, arrivederci e grazie. Ed era Zibrov, oggi ne abbiamo sentito la voce, di solito si esprime scrivendo sulla Komsomolskaya Pravda, il corrispondente che da Roma racconta ai russi la vita, il sociale, gli aspetti più inattesi, naturalmente anche la politica e lo sport, come avete sentito. Ogni mattina alle 7:15 l'incontro con uno dei corrispondenti esteri che vivono nel nostro paese. In 24 Mattino, invece, per la giornata di oggi parleremo della Corte di Strasburgo, cioè la Corte dei diritti dell'uomo, perché ha condannato l'Italia a pagare 1.000 euro a un detenuto. Lui si chiama Izzet Suleimanovic e sarà nostro ospite oggi. Questo precedente, il Rom bosniaco, era detenuto a Rebibbia, ma le condizioni di sovraffollamento riguardano un po' tutti gli istituti di pena in Italia, potrebbe scatenare una vera e propria corsa al rimborso, almeno sul piano teorico. E l'Italia si vedrebbe con circa 64.000 detenuti a 1.000 euro l'uno, anche se naturalmente è un azzardo un pochino così semplificato, si vedrebbe costretta a rimborsare 64 milioni di euro per il sovraffollamento e dunque per lo stato di degrado delle carceri. E ancora uno torino, il professore Teore Ferri, associato dell'Università di Parma, denuncia aumentano sempre di più gli interventi per la ricostruzione al setto nasale dovuti all'utilizzo di cocaina. Andremo anche sulla linea Torino-La Spezia di Trenitalia, c'è un treno riservato esclusivamente ai piemontesi, proprio così. In primo piano. Ciao Mauro, ci ritroviamo fino a venerdì, a te l'incarico della lettura dei giornali. Cosa hai trovato oggi da segnalare? Buongiorno Irene, buongiorno a tutti. E oggi devo dire che tiene banco molto sui giornali questa uscita, questa sortita della Lega per l'inserimento, per la dignità costituzionale ai vessilli regionali, quindi con una sorta di promozione dei vessilli regionali da affiancare al tricolore. Naturalmente non solo i giornali che si occupano di politica o che sono di diretta ispirazione dei partiti politici, ma anche gli altri giornali gli danno grande risalto. E Per più fortuna che c'è la Lega, direbbero i caporedattori, perché dà materiale da scrivere ogni giorno dal punto di vista giornalistico. Per quel che riguarda invece le carceri e il sovraffollamento delle carceri, di cui ci occuperemo in 24 Mattino. sulle carceri c'è molto risalto ovviamente da parte dei giornali su questo dato che segnalavi prima del risarcimento dei 1.000 euro. Devo dire con un po' di orgoglio, il Sole 24 Ore aveva segnalato questa sentenza già a luglio, il 17 di luglio, parlando appunto di questo risarcimento di 1.000 euro. Ora, Ci ieri si la chiedeva combinazione. quello, perché essendo una sentenza il 17 luglio, il grande dibattito oggi. Beh, ieri c'è stata questa combinazione della diffusione degli ulteriori dati, dell'aggiornamento dei dati sull'affollamento delle nostre carceri. Sono dati, come sempre, molto critici. È noto che l'effetto dell'indulto è andato esaurito dal punto di vista della maggiore vivibilità, in qualche modo, delle carceri, e quindi le carceri risultano affollate oltre i limiti adesso in 11 regioni, sintetizza il titolo del Sole 24 Ore questa mattina. Grazie, grazie Mauro. Naturalmente buona lettura, ti seguiamo con interesse. Grazie a voi. Allora, partiamo proprio dal Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore dedica la sua apertura, il suo titolo principale, al dibattito, al confronto, ma possiamo forse dire anche allo scontro che è in corso tra le regioni e il governo in materia di fondi e stanziamenti. Regioni contro la manovra, il titolo principale del nostro quotidiano, a vuoto l'incontro dei governatori con il Presidente del Consiglio, risorse sottostimate, questa è l'accusa appunto fatta dalle regioni. E poi due editoriali questa mattina sulla prima pagina del Sole 24 Ore, uno affidato a Ivan Lobello sui doveri del nuovo mezzogiorno e appunto si occupa della attribuzione dei fondi e della richiesta di fondi da parte delle regioni del sud, e l'altro affidato ad Alberto Alesina sulle gabbie salariali, un commento volutamente provocatorio quello di Alesina, dice: ma la vera gabbia è il conformismo, l'idea di legare i salari ai diversi livelli del costo della vita tra sud e nord, avanzata da alcuni membri del governo, è ottima. Questo l'esordio di Alberto Alesina sulle gabbie salariali. Ancora in prima pagina sul Sole 24 Ore una notizia incoraggiante, una segnalazione incoraggiante in materia di fisco. Il fisco lancia le start-up, il bonus macchinari, cioè l'incentivo che è contenuto nella manovra che ha appena concluso l'iter parlamentare varata dal governo ai primi di luglio. Il bonus macchinari è accessibile anche per chi avvia una nuova impresa. E poi la segnalazione alla cassa integrazione, dei dati della cassa integrazione sono, come sapete, come avete sentito, differenziati, ma il segnale complessivo è positivo. Cassa ordinaria in calo a luglio, cresce quella in deroga. Anche sul Sole 24 Ore naturalmente spazio per un richiamo sulle polemiche leghiste. La Lega nella carta bandiere federaliste accanto al tricolore, già il Presidente del Senato, l'avete sentito nel giornale radio, ha affermato il tricolore è valore intangibile. Con il Sole 24 Ore di oggi, tra l'altro, anche Nova 24, il settimanale dedicato alla ricerca, all'innovazione e alla creatività del Sole 24 Ore, la copertina di Luca Dello Iacovo ha un titolo molto un titolo un po' da spiegare, il mulino di Kamkwamba. Si tratta di un villaggio del Malawi. Che cos'è questo mulino? Cos'ha di particolare questo mulino? È un mulino che è stato costruito da un giovane africano partendo dalla fotografia di un mulino a vento. Quindi da questo parte il numero di Nova 24, la capacità di riprodurre magari con tecnologie, con mezzi molto inferiori, le innovazioni essenziali, come vengono definite dalla copertina Nova 24, leggere come la necessità, ma di grandi conseguenze. Vediamo gli altri giornali. La Repubblica dedica il suo titolo principale alle questioni del tricolore, della bandiera italiana. La Lega all'attacco del tricolore, presentata una proposta di legge costituzionale per equiparare le bandiere regionali a quella nazionale. Dietro front sulle gabbie salariali, come sapete ieri il ministro Calderoli ha precisato di non aver parlato di gabbie salariali propriamente. Al centro pagina, carceri troppo affollate, risarcito un detenuto, e con una foto a centro pagina Repubblica segnala il duro confronto in corso alla fabbrica INSE di Milano, battaglia alla INSE di Milano, gli operai ancora sulla gru. Nella parte bassa della prima pagina di Repubblica il tour etilico delle notti romane, quindi torniamo sui temi dell'utilizzo dell'alcol, specialmente da parte dei più giovani, tema di cui si stanno occupando anche alcuni sindaci con ordinanze di divieto di vendita. Gruppi di centinaia di ragazzi si spostano da un locale all'altro, riferisce Repubblica, è la nuova moda del pub crawl. Quindi una moda di appunto passare da un locale all'altro e aumentare però anche il tasso etilico in modo pericoloso. Veniamo alla Stampa. La Stampa torna invece sulle questioni che dividono il governo e le regioni, le questioni scusate, le questioni finanziarie, le questioni di fondi che dividono il governo e le regioni, rottura governo-regioni è il titolo della stampa, non c'è chiarezza sui fondi. Palazzo Chigi replica, ma noi vogliamo dialogare. Nella parte alta del titolo, di questo titolo della stampa, nuova proposta shock della Lega, il tricolore non è sufficiente. E poi retromarcia di Calderoli sulle gabbie salariali. Corriere della Sera, il Corriere della Sera decide di puntare sulla novità che da sabato interesserà, comincerà a interessare le città. Ronde, Roma e Milano frenano. Non partiranno subito le ronde, critiche alle regole del governo. Sabato il decreto di Maroni, resistenze anche a Bologna e Firenze, sì, di Padova e Verona. Come sapete, da sabato ci saranno in vigore queste regole che consentono ai sindaci, se lo ritengono, di attivare, di abilitare le associazioni allo svolgimento di questi compiti di controllo del territorio. C'è però una certa freddezza da parte delle grandi città di Roma in particolare. E poi a centropagina ancora un argomento in qualche modo federalista, cioè il tricolore la proposta sul tricolore. La Lega, il tricolore non basta più. Interviene Schifani, valore intangibile, simbolo dell'unità. Proposta di legge costituzionale per affiancare alla bandiera i simboli regionali. Anche sul Corriere della Sera, la sentenza delle carceri viene richiamata da un piccolo titolo in prima pagina. Diritti umani, le carceri sono troppo affollate. La Corte europea condanna l'Italia. Il giornale decide invece di puntare sulle gabbie salariali, tornare sulle gabbie salariali. Il titolo che occupa il centro della pagina del giornale è: il PDL non trova l'uscita dalle gabbie salariali, stop di Sacconi, Chicchitto apre, Rotondi contrario, Calderoli insiste, stipendi adeguati al costo della vita. Ma nella prima pagina del giornale campeggia una grande foto di un autovelox, e quindi sull'inchiesta, dedicato a questa foto all'inchiesta che ha portato a indagare 200 tra vigili e sindaci. Guerra ai truffatori, autovelox taroccati, indagati 200 tra vigili e sindaci. Il giornale poi unisce anche il contrasto, le azioni di contrasto ai cosiddetti falsi invalidi, l'INPS dalla caccia a 200.000 furbetti. E poi il ministro Brunetta che annuncia un piano per scovare gli imbroglioni. Dal giornale la segnalazione di cui sentivate parlare prima Irene Zerbini, su cui torneranno i programmi di Radio 24 questa mattina. Campanilismi, ecco il treno per i piemontesi che è vietato ai liguri. Cambiamo argomento passando a Libero. Libero decide di riassumere in qualche modo le recenti proposte avanzate dalla Lega con il titolo Gli slogan di Bossi, strategie d'agosto. Questa è la chiave di lettura che viene data da Libero: gabbie salariali e bandiere regionali oltre al tricolore. Il senatore rilancia sul federalismo usando concetti forti e chiari. E se avesse ragione la Lega a parlare di politica in questo modo? Questa è la provocatoria domanda che viene avanzata da Libero. E poi prosegue l'inchiesta sulle ferie della casta, come le chiama appunto il giornale Libero. Sindacalisti in vacanza da una vita, 11 mesi a far danno, si scrive polemicamente Libero in prima pagina, uno in ferie. Su Libero viene dato anche ampio risalto allo scandalo che riguarda questa volta non dei politici italiani, ma politici tedeschi, il vizietto dei ministri tedeschi, ferie in auto blu dopo la Schmidt, altri 5 socialisti in vacanza a spese dello Stato. Crollo dell'SPD a 2 mesi dal voto. Dietro queste denunce chiaramente pesa anche l'avvicinarsi del voto in Germania. Ancora dal giorno si torna sulle gabbie salariali statali, di stipendi differenziati. Gabbie salariali, un no bipartisan. Baldassarri della PDL dice però nel pubblico si può fare. Anche sul giorno, grande foto dedicata alla truffa autovelox, limiti eccessivi, apparecchi truccati, 200 indagati nel Casertano. sulla le vicende delle ronde e della bandiera tornano ovviamente altre testate più interessate, più direttamente interessate alla politica. Ad esempio il Riformista parla di ronda anomala, riprendendo un po' il titolo suona un po' come quello che abbiamo trovato sul Corriere della Sera: si sfilano tutti, resta solo la Lega al via sabato, i sindaci di centrodestra sono dubbiosi, i poliziotti non gradiscono, sono dilettanti, crescono i cavilli e il distinguo sull'iniziativa. E il partito di Bossi che fa? Propone inni e bandiere regionali. Questa sortita sulla bandiera, tra l'altro, come viene spiegato da i giornali nelle pagine interne, riguarda un progetto di legge che è stato depositato nel 2008 e che però solo ieri ha trovato una sua maggiore visibilità. Il Manifesto pure riporta nella sua prima pagina, la Lega ci riprova, il tricolore non basta, bandiere regionali, ma la parte alta del Manifesto è dedicata alla vicenda della INSE, con un polemico titolo: insegnano quindi nella loro resistenza a oltranza a questo sgombero, isolati dalla polizia all'interno dello stabilimento, gli operai restano sulla gru per difendere il loro posto di lavoro, chiedono l'intervento di Berlusconi. Veniamo al Messaggero. Il Messaggero decide invece di segnalare i possibili disagi che potranno accompagnare il trasferimento degli italiani da sabato prossimo. Bollino nero, allarme partenze, esodo per 12 milioni, sconsigliato mettersi in viaggio sabato, si avvicina quindi quello che il Messaggero definisce il weekend più difficile dell'estate. E poi le tensioni sulla benzina, sempre in questo titolo del Messaggero: benzina verde a 1,35 euro, Scaiola convoca le compagnie. A centro pagina del Messaggero naturalmente torna la questione della bandiera. La Lega attacca il tricolore, il carroccio, spazio alle bandiere regionali nella Costituzione e subito l'altolà di Schifani. Posizione ribadita da un commento di Piero Alberto Capotosti intitolato «Guai a toccare un patrimonio di tutti». Ora ci fermiamo un istante per le informazioni sul traffico. Strade in diretta. C'è un incidente sulla 26 dei Trafori, le code sono tra la diramazione per la 7 Milano-Genova, la diramazione Preto-Sabettole e Ovada in direzione Genova. Verso Napoli, sulla 3 Napoli-Salerno, invece un mezzo in avaria a causare rallentamenti tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti per il traffico tra Fuorigrotte e Agnano in direzione Pozzuoli. Traffico e code anche verso Roma sul tratto cittadino della 24, Roma-L'Aquila-Teramo, dal grande raccordo anulare alla tangenziale est della città e sullo stesso grande raccordo, rallentamenti in carreggiata interna tra Tuscolana e Appia. In Liguria le code sono sulla 7 Milano-Genova in direzione Genova, dal bivio per la 10 a San Pierdareno, per i molti veicoli diretti al porto. La stessa 7 Milano-Genova è chiusa tra l'innesto con la 12 Genova-Bolzaneto verso Milano, non rimarrà fino al 19 di agosto. Attenzione perché le code le troviamo anche sulla 10 fino proprio alla 7 Milano-Genova a partire da Pegli. Ci spostiamo in Toscana, prudenza ancora se viaggiate sulla Firenze e Pisa-Livorno. La nebbia potrebbe ridurre la visibilità tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Ovest. Vi ricordiamo anche il nostro numero verde utile per le vostre segnalazioni: 800 19 7313. Per il momento è tutto, torniamo tra 30 minuti. In primo piano. Bentornati alla lettura dei giornali. Abbiamo visto come occupi molto spazio sulle prime pagine di tutti i giornali questa proposta della Lega di affiancare alla bandiera nazionale, al tricolore nazionale nella Costituzione, come dignità, dare dignità costituzionale anche ai vessilli regionali. Allora vediamo come la prima pagina della Padania questa mattina, il quotidiano appunto della Lega. Il titolo più importante è dedicato alla sentenza di cui abbiamo parlato, il sovraffollamento delle carceri, il risarcimento per questo cittadino bosniaco. Il titolo è molto polemico: lo straniero in galera si fa risarcire. Un'altra perla della Corte Europea, questo dice la Padania, quella che ci costringe a tenere i terroristi. 1.000 euro a un ladro bosniaco vittima è tra virgolette del sovraffollamento. E Cotta commenta: scontino la pena a casa loro, le carceri non sono hotel a 5 stelle. Una lettura quindi fortemente come dire, indirizzata quella offerta stamattina dalla Padania di questa vicenda delle carceri. Ma a centropagina campeggia una, è proprio il caso di dirlo, una foto con una serie di bandiere e inni per difendere l'identità. E poi la segnalazione di un'iniziativa in Calabria, la Calabria si inventa il comune deleghistizzato. Il sindaco di un paese del Cosentino ha deciso di definire il comune deleghistizzato perché dice la Lega disprezza il sud e quindi noi abbiamo deciso di essere deleghistizzati, ha deciso questo paese nel Cosentino, riferisce la Padania. A dimostrazione che queste sortite sulla bandiera, sul tricolore e così via provocano poi anche una serie di difficoltà all'interno della stessa maggioranza. Vediamo allora l'apertura del Secolo d'Italia, quotidiano nel PDL, così si definisce, ugualmente polemica, ogni giorno ce n'è una. Questo è il riassunto, la frase che riassume le sortite della Lega. La Lega ora chiede inni e bandiere regionali. Il PDL proposta irricevibile. Quindi nella maggioranza in qualche modo si discute, anche se si discute probabilmente, finché si discute delle questioni di bandiere, magari si resta un po' lontani da altre vicende più di sostanza. Sull'Avvenire, l'Avvenire dedica il suo titolo più importante alle questioni estere, come spesso fa. Parliamo di Ahmadinejad giura tra scontri e arresti, quindi le tensioni in Iran. A Teheran il presidente iraniano rilancia la sua sfida agli occidentali, ma alla cerimonia erano molti gli assenti. E poi avverte sempre l'Avvenire sulla sua prima pagina: in Iran non si placano proteste e repressione, il boia non si ferma, in un solo giorno 24 impiccati. La vicenda di risarcimento al detenuto bosniaco è ricordata da una foto, carceri super affollate, l'Italia dovrà risarcire un detenuto, e poi le questioni appunto federaliste e simil federaliste, gabbie salariali, fronte già chiuso, la Lega apre il caso del tricolore. Ricorda sempre in questo titolo a centropagina l'Avvenire che non c'è stato nessun accordo nell'incontro governo-regioni. Infine l'annuncio: arriva l'esodo da Bollino Nero, sabato sarà una giornata difficile per il traffico, ecco i punti roventi del weekend. Questa l'iniziativa dell'Avvenire per segnalare appunto le difficoltà dell'esodo. Ci sono la vicenda sul tricolore trova spazio anche sul Secolo XIX, in cui il titolo principale è "Scontro sul tricolore, la Lega non basta più, cambiare la Costituzione con inni e vessilli regionali". E poi a centropagina sul Secolo XIX, anche qui sei in cella, detenuto risarcito, la Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia a pagare 1000 euro a un bosniaco. Cambiamo decisamente argomento con la prima pagina della Gazzetta dello Sport, prima pagina in cui si segnala l'acquisto di Untelar, la punta del Real Madrid, da parte del Milan. Dice: oggi l'ok da Madrid, Berlusconi sceglie Untelar, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, 15 milioni per l'attaccante olandese. Elogi a Leonardo, è appunto il riferimento all'incontro con la stampa che il presidente del Consiglio e del Milan ha avuto ieri sulle vicende di mercato del Milan. Elogi a Leonardo, l'allenatore del Milan, lo abbiamo ascoltato, quindi Pirlo resta. Ricorderete ieri la Gazzetta dello Sport appunto aveva annunciato questo intervento di Berlusconi per trattenere Pirlo a Milano e al Milan. Ritorniamo sulle vicende legate più alla politica. Il Messaggero ha una pagina interna in cui si ricorda che da sabato prossimo scatterà il reato di immigrazione clandestina. e fa parte del pacchetto sicurezza, quello stesso pacchetto sicurezza che consentirà appunto di far partire le norme sulle ronde cittadine di cui sentiamo parlare, di cui abbiamo visto ampio spazio sui giornali anche di questa mattina. Immigrazione clandestina scatta il reato, ricorda il Messaggero, da sabato ammende fino a 10.000 euro. Escluse colf e badanti, ricorda sempre il Messaggero nel suo titolo. E poi la permanenza nei centri temporanei più lunga di 4 mesi, i centri di identificazione ed espulsione potranno trattenere per 6 mesi gli immigrati fermati. Nessuna pena detentiva stretta sui matrimoni con gli stranieri, ricorda sempre il Messaggero in questo servizio affidato a Mario Stanganelli. Solo un dettaglio sulla vicenda del treno per i piemontesi, di cui poi sentirete parlare anche nella seconda parte di radio di questo programma. Liguria Terra è col treno per soli piemontesi. Il Torino-La Spezia, dice il giornale, è il convoglio che porta al mare i bagnanti Bojanen, cioè i piemontesi, ma spesso si riempie di pendolari della costa. Il Piemonte si accorda con Trenitalia, finanzia una corsa su cui si può salire liberamente solo fino al confine regionale. E poi il racconto di Cristiano Gatti di questo treno che appunto da Torino alla Spezia permette le prenotazioni solo fino a Novi Ligure. Polemicamente, nella stessa pagina, il giornale solleva un caso che riguarda i voti di maturità, lo strano caso degli studenti geni, tutti al sud. Promossi in Puglia, i 100 e lode alla maturità sono il doppio della Lombardia. La verità, commenta il giornale, professori generosi. E con questa segnalazione ulteriormente federalista in un certo senso, così come sono federaliste molte prime pagine dei giornali di oggi, chiudiamo questa rassegna stampa e ridò la parola a Irene Zerbini. Ciao Irene. Grazie, grazie Mauro Meazza. Ci rivediamo domani per la lettura dei giornali. In 24 mattino, tra pochissimo, andremo a discutere alcuni dei temi che Mauro vi ha segnalato, tra questi anche la linea Torino-La Spezia, il treno riservato ai piemontesi. Era stato segnalato dal secolo XIX, il giornale di Genova, 2 giorni fa. Ma cos'è successo davvero? Ne parleremo. Come parleremo anche della voglia dei giovani di esagerazione. Ne parla anche l'Iliade, ci dice un sociologo, De Masi. L'unica differenza oggi è la tecnologia, ma le esagerazioni, la voglia di divertirsi ubriacandosi, facendo sesso e bisbocce, è delle generazioni giovani. E dunque smettiamo di dire che la novità si stia verificando adesso, che sia un fenomeno dei giovani dei nostri tempi. Parleremo anche di esagerazioni di un certo tipo, pericolose, avvertono i medici, in questo caso un otorinolaringoiatra che mette tutti in allerta. La lacerazione del setto nasale dovuta all'uso di cocaina aumentano gli interventi, scusate, chirurgici in questo senso. Nelle corsie degli ospedali pubblici, prima ci si rivolgeva solo alle cliniche private, garanzie di anonimità. Invece adesso sempre più dottori nel pubblico devono intervenire in situazioni di questo genere. E ancora il nostro carcere, il carcere italiano. Un detenuto bosniaco ci racconterà perché ha fatto ricorso e ha ottenuto un risarcimento dopo essersi rivolto alla Corte europea per aver vissuto a Rebibbia in situazioni degradanti e umilianti. Innanzitutto l'avvocato Alessandra Mari, buongiorno, benvenuta in trasmissione, avvocato. Buongiorno, grazie. Che ha rappresentato Izzet Suleimanovic, il detenuto a cui andrà l'assegno di rimborso. È stato difficile ottenere un risarcimento per un detenuto o le condizioni erano talmente degradanti che il pronunciamento della Corte di Strasburgo è stato unanime veloce? Lo chiede a me? Sì. Ah, allora, il pronunciamento non è stato unanime perché la sezione ha giudicato con 5 voti favorevoli e 2 contrari, tra cui quello del giudice che rappresenta l'Italia. Perché Vladimiro Zagrebelsky, cioè il giudice, proprio il giudice italiano e il suo collega si erano pronunciati in maniera differente dal collegio? Perché loro ritenevano che la giurisprudenza della Corte in questa materia non dovesse essere seguita, perché la Corte in sostanza aveva anche in altri precedenti affermato che la mancanza di spazio sufficiente rispetto agli standard previsti dal Comitato per la Prevenzione della Tortura e Trattamenti Disumani Degradanti di per sé, soprattutto ad esempio quando si scende al di sotto di un certo livello, può costituire un trattamento disumano e degradante, mentre i giudici che hanno espresso l'opinione contraria ritenevano che ci volesse un qualche cosa di più rispetto a questo solo elemento. Altre condizioni. Allora, avvocato, ritorniamo al nostro detenuto. Innanzitutto Izzet Suleimanovic, lo ricordiamo, è stato a Rebibbia in quali anni? Dunque, è stato a Rebibbia subito dopo che è tornato in Italia, dopo essere stato espulso in modo, a nostro avviso, diciamo, contrario alla stessa Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, perché si era trattato di una espulsione collettiva. Lo ricordiamo, è un cittadino della Bosnia Erzegovina. Sì, esattamente. Di etnia rom, peraltro, e quindi insomma erano stati oggetto lui e molti altri rom di un'espulsione collettiva da due campi di Roma, avverso la quale avevamo proposto ricorso sempre davanti alla stessa Corte Europea, che aveva reso una sentenza di ricevibilità del ricorso, a seguito della quale poi si è fatto un accordo di composizione amichevole col governo che ha consentito il ritorno in Italia Dunque, Suleimanovic torna in Italia e viene condannato nel 2003 per vari furti a un anno precedenti. Cioè, a un anno è tornato in Italia con la consapevolezza che sarebbe stato arrestato e tradotto in carcere, quindi diciamo ha consentito egli stesso ovviamente a questa cosa, ben consapevole. Dunque la condanna, un anno, 9 mesi, 5 giorni di prigione. A questo punto viene rinchiuso a Rebibbia e si accorge che non riesce nemmeno quasi ad alzarsi in piedi nella cella. Quali erano le condizioni in cui era detenuto? Le condizioni erano di sovraffollamento, per l'appunto, perché si trattava di una cella molto piccola nella quale si trovava insieme a molti altri detenuti e la conseguenza, diciamo, di questa situazione è che ciascun detenuto aveva uno spazio a disposizione inferiore ai 3 metri quadrati e 2,7 metri quadrati, se non mi ricordo male. Quindi ben al di sotto dei 7 metri quadrati stabiliti dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. Ma ora, avvocato, le voglio fare un'altra domanda. Si rivolge a lei un detenuto per segnalare queste situazioni senza dubbio molto difficili, degradanti, sotto gli standard, ma che sono la norma nelle carceri italiane, purtroppo. Pensiamo che a Brescia o a Sassari in 8 metri quadri vivono 6 o 7 detenuti. Lei cosa ha pensato? Un caso difficile, impossibile, non vinceremo mai? No, invece no, perché vi erano già stati, diciamo, dei precedenti della Corte in relazione ad altri paesi che avevano giudicato costituire trattamento disumano e degradante situazioni del tutto analoghe e proprio per questo, a mio avviso, vi erano le condizioni perché la Corte si pronunciasse nello stesso modo anche nei confronti dell'Italia, visto che le condizioni erano analoghe. In particolare si trattava di molti casi che erano stati resi nei confronti della Russia e proprio per questo, diciamo, secondo me lo standard era già stato fissato dalla Corte. Grazie, benissimo, grazie Alessandra Mari. Quindi è il primo risarcimento a un detenuto in Italia e non il primo caso di condanna. Buongiorno anche a Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone, benvenuto. Buongiorno. Patrizio Gonnella cura un'associazione per i diritti e le garanzie del sistema penale. Dunque, quando esce questa sentenza, Gonnella, lei è rimasto sorpreso che la Corte europea abbia così puntato l'attenzione sull'Italia? Era una sentenza che attendavate da tempo, perché ci sono situazioni anche peggiori di quelle segnalate dal detenuto. diciamo sorpresi no, perché c'è uno sguardo critico dell'Europa rispetto all'Italia, uno sguardo critico che proviene dalla Corte, che proviene dal Comitato. Ricordo che il Comitato, fra l'altro, attualmente è presieduto da un italiano, da Mauro Palma, quindi c'è uno sguardo critico perché la situazione italiana è fra le peggiori in Europa. Il tasso di affollamento delle carceri italiane è superato solamente da alcuni paesi dell'ex costellazione sovietica. Nell'area dell'Unione Europea siamo quelli peggio messi, con i nostri 21.000 detenuti in più rispetto ai posti letto regolamentari, ed ovviamente questo fa sì che può capitare, come Appoggio Reale a Napoli, che in 18 metri quadri vivano 10 persone, e non per il breve periodo di tempo che diciamo per esempio ci ha vissuto il detenuto bosniaco, ma per anni interi. Al Lucciardone di Palermo in 16 metri quadri dormono 16 detenuti. Ma Gonnella, allora la soluzione qual è? Costruire più carceri? Diciamo quella è ovviamente sempre nell'arco delle soluzioni possibili. Purtroppo la storia italiana ci ha dimostrato che c'è un po' una incapacità, c'è sempre stato un po' di malaffare intorno alla costruzione delle carceri. Un punto sul piano di edilizia penitenziaria presentato dal governo è privo per una buona parte di copertura finanziaria e quindi probabilmente non riuscirà a risolvere il problema, ed inoltre si creano molti meno posti rispetto alla quantità di detenuti che entrano nuovi mensilmente nelle carceri. Probabilmente bisognerebbe invece avere il coraggio e prendere alcune questioni come l'immigrazione e le droghe e trattarle in modo diverso da come oggi sono trattate. Lei, tra l'altro, oltre a questa soluzione politica, propone anche di rifarsi a un modello. Cita gli Stati Uniti. In che senso? Che alcuni stati degli Stati Uniti, penso alla California, ma penso anche ad una vecchia tradizione scandinava, usano le liste d'attesa, per cui per i reati meno gravi, ovviamente, si riferisce in particolare alla custodia cautelare dei reati meno gravi, si va in lista d'attesa, per cui i posti sono 43.000, ne arriva uno in più, aspetta fino a quando uno non esce. Allora, a questo punto vorrei sentire uno dei massimi osservatori del sistema penale statunitense in Italia, si chiama Claudio Giusti, esperto di diritto internazionale, ha sentito il modello statunitense così come faro a cui guardare per quel che riguarda i reati meno gravi. Che ne pensa, Giusti? Innanzitutto buongiorno. Buongiorno a voi, ma questo fatto citato riguarda un numero piccolissimo dei 2.500.000 persone che sono in galera in questo momento negli Stati Uniti. 2.500.000 persone? Hanno il tasso di imprigionamento più alto del mondo. È come se noi ne avessimo mezzo milione in prigione, per intenderci. C'è un turnover mostruoso. Ogni anno vengono arrestati, vengono compiuti 15 milioni di arresti, e quindi è un po' difficile fare dei confronti. Ci sta anche che in certi posti, se non hanno, scusate il bisticcio, posto, ti fanno aspettare, ma normalmente ti sbattono in galera nelle jails locali, ci stai a volte una notte, due, altre volte parecchio, dipende, le situazioni sono le più varie, le più incredibili, ma sinceramente fare riferimento agli Stati Uniti non mi sembra il caso. Io guarderei cosa fanno, non so, gli olandesi o i finlandesi. Gonnella Giusti e l'avvocato Alessandra Mari, grazie per il vostro tempo, rimanete con noi perché tra pochissimo arriveremo alle vostre conclusioni. Intanto vi segnalo alcuni messaggi degli ascoltatori, mandateli in carcere in Bosnia, la prossima volta mandiamolo in albergo così il deterrente sarà maggiore, ci scrive Fiorenzo da Bergamo. E ancora, sono in Italia come clandestini, rubano, vengono messi in prigione e poi li dobbiamo risarcire per le carceri troppo piccole. Ovviamente questo non è un tema che suscita simpatia. Il caso di Sulejmanovic non suscita alcuna simpatia nell'opinione pubblica, ma i diritti civili non hanno nulla a che vedere naturalmente con la popolarità del soggetto ai quali vengono violati. In primo piano i fatti del giorno, oggi vorrei ricordarlo, il 64esimo anniversario dell'atomica, 64 anni dal primo attacco atomico della storia, e il sindaco di Hiroshima, Tadatoshi Akiba, ha fatto un appello per l'abolizione totale delle armi nucleari entro il 2020. Oggi ci sono 50.000 persone radunate al memoriale dedicato alle vittime delle catombe del 1945. E ancora la Lega, che dice il tricolore non basta, fa discutere la proposta di introdurre nella Costituzione le bandiere regionali. La benzina, ancora aumenti. Scajola convoca per oggi le compagnie perché vengano illustrati i motivi dell'attuale andamento dei prezzi. Noi torniamo alle carceri, e parlando di discussione, sicuramente fa discutere anche il risarcimento al detenuto bosniaco costretto a vivere in situazioni degradanti nel carcere di Rebibbia. Claudio Giusti, esperto di diritto internazionale, quando si parla di sovraffollamento immediatamente scatta anche l'abbinamento con il crimine, con i numeri dei crimini. Quindi in questo senso l'Italia ha un eccesso di detenuti perché è uno dei paesi meno sicuri del mondo? Questo proprio no, assolutamente no. Abbiamo per esempio un tasso di omicidio piuttosto basso, sull'1 per 100.000, mentre gli americani sono un po' sotto il 6 per 100.000 in questo momento. Siamo stati anche molto peggio, tenga presente che fra il 91 e il 2002 il numero di omicidi in Italia si è ridotto a un terzo. Meno di un terzo, si è passati da 2.000 omicidi a 638. Eppure c'è una percezione di insicurezza in Italia molto diffusa. È colpa della televisione. È colpa della televisione, così. Quelle trasmissioni morbose del pomeriggio sono una cosa, dovrebbero essere vietate. Cioè, semplicemente le dice una campagna mediatica, in realtà siamo un paese sicuro. Ma relativamente sì, cioè no, non peggio degli altri. Non ha funzionato dunque negli Stati Uniti anche la filosofia di incarcerare per il minimo, per la minima violazione delle regole. Pensate a 2,5 milioni di detenuti in questo momento. Gonnella, Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, le sue osservazioni su questo scenario internazionale in cui ci inseriamo. Sì, diciamo, sono perfettamente d'accordo col professor Giusti che gli Stati Uniti non sono ovviamente il modello anche per gli eccessi di privatizzazione. Guardiamo l'Italia dentro il contesto europeo, e dentro il contesto europeo ci stiamo lentamente avvicinando ai paesi dell'est come tipologia di incarcerazione, come condizione di vita interna. Questa è la nostra preoccupazione, sia il tasso di affollamento, sia il bassissimo numero di persone, di educatori, di medici, di assistenti sociali che operano all'interno delle carceri, sproporzionati in basso rispetto al numero di poliziotti che vi operano. Ecco, diciamo, l'Italia, che ha una delle migliori leggi penitenziarie europee, modello per tutta l'Europa come legislazione penitenziaria, oggi nella pratica penitenziaria non è più un modello. E cosa funzionerebbe a parte la detenzione? Lei prima citava gli Stati Uniti, io so che negli Stati Uniti, come in Canada per esempio da cui provengo, per alcune violazioni non gravissime si prenotano appunto i fine settimana per compiere lavori socialmente utili, per cui si viene condannati nel fine settimana, poi per il resto si conduce una vita normale, a compiere dei lavori socialmente utili, di volontariato per esempio, di recupero del patrimonio ambientale, di pulizia dell'ambiente. Sicuramente sarebbe un utile contrappasso, poi bisogna recuperare le sanzioni pecuniarie, bisogna recuperare le possibilità di affidamento a comunità, a luoghi dove il detenuto possa veramente intraprendere un percorso di risocializzazione, perché non dimentichiamocelo, il carcere è una fabbrica criminale, un piccolo criminale, una persona che ha compiuto fatti di lieve entità, se va in galera, va all'università, si specializza, diciamo, in 18 metri quadri con 10 persone di cui la metà sono criminali un po' più seri, esce ben strutturato. Invece se andasse in una comunità con associazioni, gente normale e gente per bene, probabilmente l'obiettivo del recupero, forse in alcuni casi, chiaro, non nella totalità, quello sarebbe un'utopia, potrebbe funzionare. Grazie mille a Patrizio Gonnella, presidente d'Antigone, all'avvocato Alessandra Mari, che ha difeso Izzet Suljeimanovic, il detenuto che verrà risarcito di 1.000 euro e che si teme, così è stato lanciato questo allarme, potrebbe aprire con questo precedente una catena di di ricorsi e portare l'Italia, se non si metterà in regola con le normative, lo standard degli spazi, delle celle e non solo, a dover spendere 64 milioni di euro per risarcirli tutti. E grazie naturalmente anche a Claudio Giusti, esperto di diritto internazionale. Ora cambiamo pagina completamente per dedicarci a un articolo apparso sulla Gazzetta di Parma, in un giornale così di provincia, abbiamo trovato molto interessante perché indicativo in realtà di una realtà nazionale. E l'oggetto di questo articolo era un professore, un medico, un otorinolaringoiatra, direttore della struttura di otorinolaringoiatria dell'ospedale maggiore di Parma, il professor Teo Referri, che ringrazio per il suo tempo. Buongiorno e benvenuto in trasmissione. Buongiorno, grazie, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, perché è finito sui giornali lei ieri? Perché un giornalista, un suo collega, mi ha fatto un'intervista a proposito dei danni della cocaina, dell'abuso della cocaina, dei danni a livello nasale, cioè della via di somministrazione, tra virgolette, di questa droga. E quindi ho rilasciato questa intervista. E quali sono questi danni? Lei quanti ne vede? Purtroppo questi pazienti se ne vedono, sono sempre più in aumento. Anni fa erano rarissimi, ora anche nelle strutture pubbliche abbiamo la possibilità, cioè abbiamo il riscontro di questi pazienti. Cioè, vi chiedono di ricostruire il setto, in pratica? Sì, cioè la cocaina, essendo un vaso costrittore, quando arriva a contatto con la mucosa del naso, che viene automaticamente assorbita, è velocissima l'assorbimento per via nasale, sovrapponibile a quello quasi per via endovenosa. Ecco perché viene così largamente usata, e pensano che questo sistema, questa via di somministrazione, sia meno pericolosa per complicanze di quella venosa e quant'altro. Quindi, oltre ai danni ovviamente che produce a livello centrale, il sistema cerebrale, cerebrale della cardiologico, vi è anche un danno che probabilmente molti giovani specialmente ignorano, non conoscono, proprio a livello topico, a livello della via di somministrazione. Quindi non è per niente sicura, assolutamente, provoca dei grossi danni a lungo andare, tra cui la perforazione del set. Se adesso qualcuno che la sta ascoltando, per esempio, fa uso di cocaina, visto che l'utilizzo, ma se smette oggi è al sicuro? Se smette i danni sono ancora limitati, perché per fortuna l'azione non è immediata, non è un castico, non ha un'azione travolgente sui vasi che riscoprono la cartilagine quadrangolare del setto, ma è un'azione lenta, per cui se smette, non c'è ancora la perforazione, probabilmente riesce così a salvare le strutture nasali, ad avere una funzionalità nasale ancora conservata. E in alcuni casi invece la perforazione aumenta anche dopo che si è smesso, perché? La perforazione viene, cioè la cartilagine che è scoperta viene continuamente traumatizzata dall'aria inspirata, si formano dei vortici in quanto l'aria passa da una fossa nasale all'altra indiscriminatamente, e questo è un trauma continuo sulla porzione posteriore della perforazione, e quindi si allarga a macchia d'olio. E poi questo comporta una rinite di tipo crostoso, emorragie, secrezioni, comincia a non funzionare il naso, quindi produzione di muco purulento, insomma tutta una serie di problemi che anche nella quotidianità rendono difficile respirare, diciamo così, stare bene e continuare nelle proprie attività normali. Ora, queste persone che hanno subito dei danni da abuso di cocaina, in genere si rivolgevano al privato pensando lì rimarrò anonimo, nessuno saprà niente, per questo tipo di operazioni, cominciano a vedersi sempre di più anche nel pubblico. Il professor Ferri dell'ospedale maggiore di Parma è uno dei tanti otorino che sempre più spesso si trova ad intervenire su pazienti di questo genere. Con noi anche un sociologo, Domenico De Masi, che ringrazio moltissimo per il suo tempo. Buona giornata. Grazie a voi di avermi chiamato. È stupito di questa Io non mi intendo assolutamente di tossicodipendenze, però sono sempre più spesso diciamo allarmato del fatto che dei piccoli sintomi vengono scambiati, diciamo, per grandi fenomeni e grandi fenomeni sociali. Allora, abbiamo visto la reticenza giusta del dottore, del professore, nel dirci quanti vanno da lui. Io credo che ce ne vadano pochissimi. Professore? No, io non ho nessuna reticenza a dirlo. Dico che vengono quelli che finora abbiamo potuto vedere, cioè la frequenza è sempre più elevata, probabilmente legata al fatto che sempre più pazienti, io li chiamo pazienti anche se non hanno ancora patologie nasali, si rivolgono, cioè fanno uso di queste sostanze. No, che ci sia un aumento di numero di consumatori di cocaina è innegabile. Il prezzo diminuito, così mi dicono, è chiaramente a portata di tutti, quindi anche di persone che non si possono permettere probabilmente di andare nelle costose case di cura a farsi curare, ma chiedono al Servizio Sanitario Nazionale. Grazie. Con un costo maggiore ovviamente anche per tutta la struttura pubblica. Grazie dottore. E Domenico De Masi? Questo l'ho capito. Dico, aumento che significa? Che ce ne sono 10 in più al giorno, 10 più all'ora, 10 più in un anno? No, no, guardi, le dico le cifre, guardi, così sgomberiamo il campo da questa incertezza. Sembra che ci sia stato un aumento del 40% rispetto al 2007, questa è la stima dell'osservatorio del Dipartimento Dipendenze Patologiche della SL Città di Milano in un convegno, l'altra faccia della cocaina, quindi certo, senza dubbio. Questo non ci dice nulla se non sappiamo qual era la cifra del 2007. Allora, perché se erano uno e ora sono due, si dice no, che è aumentato del 200%. No, siamo a 1.100.000 secondo queste stime, pari al 3% della popolazione italiana tra i 15 e i 54 anni. Ora io non so quanto in questo sarà incluso chi l'ha usato una volta e chi la usa tutti i giorni probabilmente, quindi è sempre difficile quantificare questo tipo di fenomeni, però lei ha ragione a lanciare un appello: dobbiamo smetterla di pensare che siamo di fronte a un fenomeno di giovani dei nostri tempi, che ormai la società vada a catafascio, che tutto sia inusuale, nuovo e terribilmente catastrofico. È così. Sempre più spesso, per esempio, che si suicida un adolescente e un giornalista telefoni dicendo: professore, di fronte a questa ondata di suicidi lei cosa ne pensa? Allora bisogna essere sempre più cauti e in qualche modo scientifici nella rilevazione dei fenomeni. È preoccupante ovviamente se questo fenomeno aumenta, perché è un fenomeno patologico, quindi quando aumentano le patologie non c'è che da preoccuparsi. C'è da capire però sempre per bene qual è il livello di allarme, altrimenti ogni piccolo sintomo viene scambiato per una catastrofe. Vorremmo concludere con Domenico De Masi, il sociologo, che dice: i giovani hanno sempre amato le esagerazioni, ne parla anche l'Iliade. Allora, professor De Masi, a esagerare sembra siamo noi giornalisti a questo punto. In qualche modo sì, nel senso che è quasi naturale nel vostro mestiere dover cercare le anomalie, non le normalità. Una cosa normale non fa notizia, e spesso le cose anormali non ci sono, sono poche, allora si finisce per crearle, nel senso di stressare una notizia in modo che questa notizia desti sorpresa anziché una normale reazione adulta, diciamo così. Una ragazza è andata in coma etilico nel corso di una festa per eccessivo consumo d'alcol, tra l'altro ha lasciato l'ospedale, sta bene, e vorremmo aggiornare anche questa notizia, che è arrivata da Panarea. Che sensazioni le ha suscitato? Ma guardi, io ci scommetto che non c'è giovane uomo o donna che nella sua traiettoria, diciamo, di giovinezza non si sia sbronzato una volta. Poi può capitare che una volta vada al di là della normale sbronza, diciamo così, e quindi questa cosa fa notizia, ma che spesso, come avviene, se ne tragga la conclusione che quindi oggi i giovani si sbronzano, oggi i giovani sono anormali nelle loro manifestazioni, ecco, questa è un'esagerazione. Questo è un caso, ecco tutto qui. I giovani sono circa 5 milioni, un caso su 5 milioni, insomma, è una notizia relativa. E lei ha puntato il dito su un brutto costume, un mal costume del giornalismo, che è quello di esagerare dei singoli casi. Però c'è anche un altro dato, secondo me, che emerge quando ci si riempiono i giornali, le radio, non ci sottraiamo dalle nostre responsabilità, naturalmente le televisioni, di notizie di questo tipo. La distanza, la difficoltà a raccontare i giovani, lo scarso dialogo con queste generazioni. Lo scarso dialogo non è dovuto ai giovani, è dovuto agli anziani, ovviamente. Nel caso mio, io faccio il professore di università, per cui mi ritrovo almeno per la metà del mio tempo con dei giovani, e li trovo niente affatto chiusi rispetto ai giovani della mia età. Cioè, trovo che non ci siano queste differenze profonde che noi vogliamo accreditare ai giovani. Certo, loro hanno una maggiore velocità di noi di acquisire, per esempio, le nuove tecnologie, la dimestichezza con le grandi novità. Diciamo, sono dei digitali mentre noi restiamo degli analogici il più delle volte, ma la colpa è di chi resta analogico, di chi non si aggiorna. Grazie a Domenico De Masi per questo intervento, e grazie naturalmente al direttore della struttura di otorinolaringoiatria all'ospedale maggiore di Parma, Teo Referri, che non ama a sua volta i giornalisti, ha accettato di parlarci proprio per aumentare la consapevolezza di chi usa cocaina, dei rischi anche fisici. Noi vogliamo fare tappa su un treno. E questo treno sembra accetti solo liguri, è il Torino La Spezia delle 7:15 del mattino. Assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Daniele Borioli, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Senta, è così, avete acquistato un convoglio, poi si può prenotare solo fino a Novi Ligure, che si trova in Piemonte, quindi chi non è salito in Piemonte non ha più la chance di sedersi su quei sedili, no, pagati, guardi, da voi. Allora, la questione è questa, diamo qualche informazione precisa, perché in questi giorni è emersa qualche valutazione un po' inappropriata. Allora, sì. Il treno, che è l'unico treno interregionale che da quest'anno esiste sulla traccia Torino-La Spezia, prevede la prenotazione obbligatoria fino alla stazione di Novi Ligure. La prenotazione può essere fatta in stazione, dopodiché, se c'è ancora capienza sul treno nelle stazioni liguri, i passeggeri possono salire in treno, fare il biglietto e la prenotazione direttamente sul convoglio. Questo per quale ragione? Se lei possono salire? Certo, possono salire e fare la prenotazione sul convoglio. Se ci sono ancora posti, fare la prenotazione in treno. Le dico qual è la ragione brevissimamente. Se lei guarda il programma, ad esempio, di convogli di domenica prossima sui siti di Trenitalia, si accorge che da Genova alla Spezia ci sono 10 treni nell'arco della mattinata che consentono di arrivare alla Spezia entro le ore 13, quindi per poter trascorrere, diciamo, una mezza giornata sì, al mare. Da Torino questo è l'unico treno, e Torino è un bacino di origine di traffico molto consistente, perché parliamo di un'area di un paio di milioni di persone, quindi è evidente. E che poi pensa alla Liguria come punto di fuga del fine settimana, chiaramente. Beh, soprattutto il ponente, ma da quest'anno abbiamo istituito questo treno sul Levante, rispetto al quale si trattava di dare la garanzia ai torinesi, che oltretutto si fanno quasi 4 ore di viaggio, perché Torino La Spezia parte alle 7:15 e arriva alle 11:06, di poterlo fare seduti attraverso il meccanismo della prenotazione obbligatoria. Quindi, diciamo, nessuna iniziativa di stampo federalista, non c'entra proprio niente in questo caso. Attento, perché le lamentele sono arrivate, quindi evidentemente qualcuno ha malinterpretato. Quando si malinterpreta non è certo sempre solo colpa di chi non ha interpretato, ma forse il messaggio è poco chiaro. Ma sentiamo anche cosa è successo ai pendolari, e con noi oggi c'è Carlo Palmieri, portavoce del comitato pendolari, non in questo momento, e comunque hanno raccontato ai giornali, signori pendolari, che non sono riusciti a salire dopo Novi Ligure, e anzi si sono beccati delle multacce coloro che sono saliti senza prenotazione. Come spiega questa notizia, che secondo lei ha cominciato a circolare creando allarme ingiustificato, Daniele Borioli? Allora, chiede a me, sì. Ma guardi, allora, le disposizioni di servizio di Trenitalia, io ho parlato con il dirigente del servizio trasporto regionale di Trenitalia Piemonte ancora ieri sera per avere rassicurazione in questo senso e mi ha detto le cose che io vi ho appena riferito. Dopodiché, nella gestione concreta del servizio, che è un servizio nuovo, attivato da poco, può anche essere successo che qualche operatore, mal interpretando le disposizioni, abbia adottato dei provvedimenti impropri. In questo caso ci sono gli strumenti per sanare la situazione. Ah, lei dice un disguido. Credo che questa cosa la possiate verificare direttamente con Trenitalia, con la direzione regionale del trasporto piemontese. Che lei dice un disguido. Un attimo, assessore, perché abbiamo un protagonista, appunto, Carlo Palmieri, adesso l'abbiamo recuperato, portavoce del Comitato dei Pendolari. Abbiamo un minuto, purtroppo, Palmieri, a questo punto. Cos'è successo a chi ha provato a prendere il treno dopo Novi Ligure? Io qui mi sembra che stia parlando di disguidi, quindi a questo punto direi prima di lasciare le dichiarazioni voglio informarmi bene. Ci sarebbe piaciuto sentirlo, ma evidentemente è in treno. Verificheremo. Voi della Regione Piemonte avete pensato di assicurare, diciamo così, una qualità di viaggio ai vostri cittadini, carissimo assessore. Oggi i giornali sono pieni di articoli che parlano di fastidioso campanilismo, fastidioso federalismo, perché Trenitalia deve garantire un servizio migliore a chi parte da una certa destinazione rispetto a chi prende un treno con dei sedili disponibili altrove. Forse sulle tratte qualcuno ha malinterpretato, forse in realtà è stata una svista umana e non era nelle intenzioni della vostra azione. Voi comunque avete, si dice, finanziato un convoglio extra per i piemontesi, è così? Mi sente? Sì, adesso la sento. Io non parlo di intenzioni, parlo di dati. Non si tratta di miglior servizio a... Questo è l'unico treno che alla domenica permette ai torinesi di arrivare al mare. E quindi, essendo l'unico treno, è del tutto evidente che bisogna lasciare un'opzione prioritaria ai torinesi di poter usare l'unico servizio che hanno per arrivare al mare. Non c'entra niente il campanilismo, è da questo punto di vista una lettura del tutto... infondata. Questo è come chiaramente la vede lei, che rappresenta i piemontesi e i torinesi che vanno al mare. Per molti Trenitalia non dovrebbe far preferenze di questo tipo. Grazie all'assessore dei trasporti della Regione Piemonte Borioli. Da Irene Zerbini l'appuntamento a domani e ora le news.